verità. Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Abisso tra noi e la Lega su questa posizione e sulle altre. Noi pensiamo che sia fondamentale investire nella cooperazione internazionale. Noi pensiamo che sia fondamentale portare il governo, il paese a investire in Africa. La Lega Nord in Africa ci ha portato soltanto i diamanti ai tempi della Tanzania. Aiutarli a casa loro è un principio sacrosanto. Vuol dire smettere di far venire tutti qua, perché noi non possiamo accoglierli tutti. Dobbiamo salvare tutti, ma è principio di buonsenso, non è né leghista né di sinistra, è buonsenso. Torniamo ai parametri di Maastricht, rottamare il fiscal compact e l'austerity e avere un percorso per i prossimi 5 anni che porti una riduzione delle tasse per chi? Per le famiglie, soprattutto quelli con figli, per gli artigiani, i commercianti e i piccoli e medi imprenditori e per chi non ce la fa. Ragazzi, è un genio il ragazzo. Un po' leghista per dire aiutiamoli a casa loro, sarebbe meglio a casa propria. Comunque va bene, adesso non stiamo con la sintassi a essere pedanti. È un po' 5 stelle pentastellato, no? Come i 5 Stelle che vogliono abbattere il fiscal compact in autunno, e allora lui intuisce un po' leghista e un po' 5 Stelle. E a lei, come sei cattivo. No, dai, presidente De Luca, vabbè, è un'osservazione così. Noto che il ragazzo è scaltro, ecco. Scontro fisico. No, addirittura. No, addirittura no. Signori, siamo qua, sono le 6:31 minuti, questo è 24 mattino, Ma perché non te lo porti a casa tua se sei così caritatevole? Ecco, appunto, questa è la... Ma chi? Renzi? Non ho capito, De Luca. Il migrante? Il profugo? O Renzi? Non lo so. Bisogna vedere se il nostro Vincenzino si riferiva al presidente ex del Consiglio oppure no. Andremo avanti. Questo sicuramente. Andremo avanti almeno fino a fine luglio, questo è certo. Ancora 14 sveglie all'alba, signori. Sono reduce da un grande weekend a Ripa Teatina. Saluto tutti gli amici di Ripa Teatina, a Chieti, per il Festival Rocky Marciano, arrosticini a volontà, a gogo e a lei. E che dire, c'è Peter Bescapè, regia, Lorenzo Nespoli in redazione, siamo pronti per iniziare una nuova settimana di 24 mattino, mentre a Borgo Virgilio ci sono 24,2 gradi e cielo sereno, umidità al 72%, saluto Carlo, grazie Carlo. Mentre a San Giovanni in Persiceto ci sono 26 gradi e fa caldo, baci. Eccola la nostra Chiara da Perth. Puntuale, Australia, 16 gradi. A Gardone Valtrompia, 24 gradi. A Pescara, dove ero ieri, appunto, 24 gradi. Ciao Luciano. A Savona, 25 gradi. A Rimini, 28 gradi. Sole, sole, sole. mentre il nostro fornaio da Ravarino ci fa sapere 23 gradi. A Costa Volpino, Bergamo, 22 gradi, mentre vogliamo salutare un grandissimo ascoltatore, ci ascolta da Khartoum, Sudan, 22 gradi in questo momento. Caro Mauro Corona, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, interessa sapere almeno a Khartoum quanti gradi ci sono? Ma chi se ne frega, ma state perdendo tempo a dire i gradi di... Però Khartoum, uno non è che può sapere. Khartoum, bella questa cosa, no? Uno che mi ascolta la mattina, mi dite cosa gliene frega sapere i gradi a Khartoum? Almeno sa se si deve mettere un attimo. Ma quando va lì a Khartoum sa i gradi che ci sono, li sente sulla pelle. Anche questo è vero. Ma noi è un modo per salutare la nostra comunità che ci ascolta da Perth a Khartoum, da San Giovanni in Persiceto a Erto, capito? Sì. Va bene. Dov'è Corona? Dove sei? Erto. Sono rientrato anch'io da una gita sul arrampicare su per le montagne. Oh, che bello, che bello. Allora, caro Mauro, salutiamo anche Flavia Perina che è con noi. Buongiorno Flavia, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Tutto bene? Tutto perfettamente. Vogliamo dire i gradi a Roma, così si innervosisce ancora un po'. I gradi saranno, io sono San Felice Circeo, i gradi saranno, non so, 25, 26. Diciamo. E Circeo in genere cos'è? Un po' più alta, un po' più bassa rispetto a Roma? È un po' più a livello del mare, quindi penso più o meno uguale. Più o meno uguale. E va bene, allora, abbiamo sistemato anche questa questione. Tra l'altro, apriamo il Parlamento, perché ieri è stata una giornata per la montagna. Ragazzi, se prendere un caffè e gli state sopra così... Caro Mauro, per la montagna, alla Presolana, per la precisione, conosci la Presolana? Ti piace? Sì. La regina delle Orobie. Hanno fatto un Guinness dei primati, sono messe 3200 persone con una cordata simbolica, no? Per ripristinare il valore della montagna, sono entrati nel Guinness dei primati, si sono messi lì e niente, così per rivalutare l'importanza della montagna e anche della sicurezza in montagna. È una bella cosa, no? Ma quale sicurezza? No, non lo so. Spiegatemi che la sicurezza in montagna, come dire la sicurezza sull'autostrada, può capitare degli incidenti, sì. Quelle cordate sì, simbolica, ma la montagna... Hanno fatto questa cordata per fare che cosa? Voglio capire. Entrare nel Guinness dei primati intanto. Ah beh, allora sì, si può fare anche come la processionaria, da andare da qui a Tokyo tutti presi per mano. La montagna povera, la montagna dove non nevica firmato, dove non è Courmayeur, non è Cortina, non è Corvara, non è Davos, non è che... La montagna povera sta morendo. Perché impastoiata in mille regole, quello della parlantina troppica lì dovrebbe occuparsi, quello che parla troppo, sì. L'insopportabile parolaio che ho udito prima, sì. Quello un po' leghista, un po' di qua, un po' di là, dovrebbe occuparsi della montagna che muore di fame, dove manca il lavoro, mancano i servizi, hanno chiuso le scuole, chiudono le poste, chiudono tutto qui da noi, dove non puoi fare nulla. Ecco, io vorrei una cordata che si occupasse, una cordata politica, della montagna povera. La montagna è quella dei paesini scomparsi. Dei paesini che stanno calati, è la battaglia che facciamo qui con Mauro Corona e che vogliamo portare avanti. Stanno morendo i paesini, non puoi aprire un bar se non dopo 10 anni di scartoffie, non puoi fare niente, stanno... Venite su a vedere. Altro che fare cordate lì dove devi che ha firmato. Va bene, dai. Adesso abbiamo distrutto anche questi al Guinness dei primati. Partiamo da qui, dai, dalla questione di Renzi. Non so, ho sentito Flavia come lo chiama, l'insopportabile parolaio. Adesso non è che Renzi è una frase di Macedonio Fernandez, rivolta a Victor Hugo. Per carità, insomma, però per Mauro si staglia benissimo su Renzi. Adesso non è che voglio dire, adesso ho fatto la provocazione a dire ovviamente un po' leghista, un po' Movimento 5 Stelle, però Flavia, che dici, come si muove Renzi? È in campagna elettorale, no? In campagna elettorale ancora? Tutti diventano insopportabili parolai, non è soltanto un problema di Renzi. Si vota a novembre in Sicilia, poi si voterà in Italia, adesso abituiamoci, cominciamo, prepariamoci. No, guarda, sarà che lunga, non c'eravamo mai disabituati. Per la verità. Stato un piccolo attimo di tregua c'è stato, adesso è finita la tregua, e quindi più c'è pure un libro da promuovere, Renzi. Mannaggia. Ovvio che adesso comincerà il tour per il libro e sarà l'apertura della campagna elettorale. Fantastico. Effettivamente forse per 4-5 giorni ci eravamo disabituati alla campagna elettorale. Non ricordo neanche... Una settimana così in cui si parlava d'altro. Vabbè, ma cos'è Mauro che ti dà fastidio? Per esempio quella aiutiamoli a casa loro, quello slogan che effettivamente è molto leghista, però poi Renzi ha tenuto a spiegare. Ma sono quelle parole che sono calate giù così che non hanno nessun senso. Aiutiamoli a casa loro, ammettiamo che si possano aiutare a casa propria. Sì. Ma sì, qualcuno lo fermerai aiutandolo lì. Ma questi vogliono venire qui, non gliene frega niente di essere aiutati a casa. Il concetto è ognuno se vivesse bene nel proprio paese, no? Non si staccherebbe mai dalle proprie radici, ma no? Ecco l'errore, qui l'errore, si vogliono staccare anche se a casa se fossero stessero bene, quelli vogliono venire qui. Per mille motivi, anche per abitare questi luoghi, abitare in Europa, abitare nel... E quindi quelli vogliono venire qui, non è che aiutandoli li fermi, ne fermerai qualcuno, quelli vogliono venire qui da noi. Ma secondo me la vera grande ipocrisia in tutto questo è che dire aiutiamoli dove stanno e poi le politiche... Guarda, ce l'ha ricordato Flavia settimana scorsa, Jean Fabre, che per 40 anni è stato allo sviluppo delle Nazioni Unite, e qui a questi microfoni ci ha ricordato, ma cosa vuol dire questi slogan? Poi in 40 anni di politiche non abbiamo investito nulla per lo sviluppo, nonostante le promesse che avevamo fatto noi governi occidentali. E allora adesso dire aiutiamoli, cosa vuol dire aiutiamoli? Cioè, dovevamo fare delle politiche. È un slogan che si sente da almeno 30 anni e nessuno ha mai capito bene che cos'è questo aiutiamoli a casa loro. In compenso noi abbiamo esportato molte guerre, e molti casini politici e tutta una situazione, al di là della situazione economica, ma la situazione, il grande esodo scatta con la guerra in Siria, scatta con la destabilizzazione del Medio Oriente, nella quale ho la sensazione che l'Occidente c'entri qualcosina. Sì, qualcosa sì. E quindi diciamo, almeno senza aiutarli, almeno ci potevamo risparmiare quello. Già quello sarebbe un buon punto di partenza, smettere di impicciarsi di quel che accade e di suscitare stati di conflitto che fanno scappare la gente. Senti, è un momento però importantissimo. Ho sentito il cucù di Mauro Corona in sottofondo. Mi faccio accompagnare. Ma perché alle 6:40 c'è il cucù? Ma perché è sballato, ma è anche lui. Detto che cosa suona alle 6:40? A me non interessa l'ora, che ora è, mi interessa sentire il suono. Bello, mettilo ogni 3 minuti. No. A che ora è messo? Così, a caso? Ogni tanto? No, siccome la vera voce registrata del cuculo ogni tanto salta, invece che fare le 8 fa le mezzogiorno, ma io, a me piace sentirlo, no? Vabbè, insomma, questo vabbè, è un po' come Renzi, fa solo rumore. Fa solo rumore. Ecco, ma proprio Renzi ti sta sul gozzo ormai. Sì, ma è stato anche qui a casa mia, l'ho avuto anche prima, l'ho anche votato. Poi appunto, ho capito di che pasta era fatto e ho cambiato marcia. O devo essere coerente su una cosa che non va più bene? No, per carità, ognuno può essere libero. È che non ho capito dove collocarti, e questa è la cosa. Io sono un po' in crisi. No? Perché Renzi no, grande delusione, Berlusconi immagino io, Marchionne tipo, a parte che ha detto non faccio politica manco di notte, no, quindi, ma adesso, lo vedo. No, quindi adesso torna forse l'idea di Marina Berlusconi, anche questa, siamo in campagna elettorale, Flavia, Marina Berlusconi ogni tanto viene pescata, è un altro déjà vu, è come aiutiamoli a casa loro, è un altro déjà vu, esatto. Marina Berlusconi in politica, Garcia Marquez, si ricomincia sempre dallo stesso punto e dagli stessi nomi, non lo so, non mi sembra un'ipotesi praticabile. Penso che stanno un po' sparando nomi a caso, poi magari ci faranno dei sondaggi sopra, non ho idea di come funzioni. Ma sì, poi col proporzionale sto candidato premier non è che serve, eh? Non è che serve. Con la legge proporzionale l'incarico di governo lo dà Mattarella, non c'è un nome sulla scheda, quindi vabbè, è un po' tutta fuffa questa però, roba qua. Però dire se vinciamo noi poi abbiamo l'incarico, mettiamo premier ma quello, no, ma questo, perché l'incarico dipende dalle alleanze, diciamo, immaginiamo uno schema di grandi alleanze tra PD e Forza Italia, beh, il PD lascia l'incarico di premier a Marina Berlusconi, dai, fa ridere. Un po' sì. Quindi, insomma, però vabbè, invece Marchionne è un altro nome tirato fuori dal cilindro, ma mi pare anche che Marchionne si mette in un pasticcio a candidarsi per fare una campagna elettorale. Marchionne fa i comizi in giro per l'Italia, dove sì, tra l'altro avrebbe una, diciamo, sì, sarebbe un evento molto folcloristico, perché io immagino la sequela di contestazioni sindacali che ci prenderebbero ogni comizio di Marchionne. Non sarebbe male. So, Mauro, ti piace lombrosianamente parlando? Ecco, torniamo un po' a lombrosiani, come piace a me. Sì, mi potrebbe anche piacere, non lo vedo invece a partire a diventare un leader, però non hanno altro, c'è una gran confusione, non lo so. No, non lo vedo io, ma lombrosianamente mi potrebbe anche piacere. Lombrosianamente, perché cos'ha? Ma c'è questo che di fallimento e di successo, di azzardo e di ridicolo anche a volte. Ah. Non è collocabile, sfugge via, si liquefà, poi torna. Cioè, lombrosianamente è anche pittoresco, però non hanno... Se volono puntare su di lui, tanto non cambierà nulla. La gente che sta, non cambierà, ma granché. C'è bisogno di un leader, lo troveranno, ma non cambierà nulla. E ci ritroveremo qui, se sono vivo, a dire che non è cambiato nulla. Ma cosa dovrebbe cambiare allora? Cioè, da cosa bisogna partire? Delle regole che aiutino le persone che hanno idee e che non possono agire. Io vedo vedrei un'anarchia imprenditoriale. La montagna non chiede soldi, chiede che si lasci fare a loro. Quindi dai, meno burocrazia, mettiamola meno così. Meno burocrazia, anarchia imprenditoriale. Imprenditoriale, vuoi fare delle cose, te le proponi e ascolta e lasciarli fare. Poi vengo a vedere se hai fatto il furbo, vai dentro. Invece qui siamo bloccati. I boschi si sono mangiati i pascoli, le case, e non puoi tagliare una frasca, perché siccome non hanno idee, proibiscono. Intanto mi salvo. E questa è la realtà. No, è bella. Lasciarli fare, non si può dipendere sempre da qualcuno che ti manda da un ufficio all'altro per 10 anni, perché sono degli incapaci. No, è fantastico. Guarda, un paese meraviglioso che ho già visitato 2 volte, ci tornerò, il Costa Rica, è un paese dove se tu vuoi aprire un ristorante, te lo fanno aprire. No? Proprio come dice, te lo fanno aprire. Poi dicono: tra 30 giorni vengo qui a vedere se è tutto a posto. Dopo 30 giorni vengono lì e dicono: c'è questo da sistemare. Ti lascio altri 30 giorni. Tra 30 giorni torno. Quando hai sistemato questo, sei a posto. Tornano dopo 30 giorni, vedono che è tutto a posto. Perfetto, puoi andare. Intanto tu hai iniziato a lavorare, hai iniziato a fare. Piacerebbe così, no, Mauro? Potrebbe essere una soluzione. Ma guarda che siamo bloccati, siamo bloccati e ti passano da un ufficio all'altro perché non sanno come cavarselo a proibisco. Intanto ti blocco e mi sono salvato. Per proibire tutto, lasciateli fare, la montagna vivrebbe, perché hanno un sacco di idee, però sono bloccate lì. Vedi, è così. Intanto voglio risalutare, guarda che bella questa cosa, dai, vedi dire i gradi a Khartoum sul Nilo, dove ci scrive questo ascoltatore che ci racconta, che ci ascolta ogni mattina prima di andare a lavorare al centro di cardiochirurgia Salam Center di Emergency da Khartoum, dove ci dice, tra l'altro c'è un campo profughi chiamato Mayo di 1 milione di persone. E se stai lì dentro sei disposto a morire pur di andartene. Andiamo al traffico. Poi dopo vi devo leggere un'intervista spettacolo a Flavio Briatore. Mauro, preparati a Flavio Briatore. Tu che hai scritto il libro Quasi Niente, sentirai tra un po' Flavio Briatore. Ciao Milan, fammi sentire il traffico. Ma no Milan, quel signore non ti vuole. Io sono andata addirittura a vedere sul calendario quanti giorni devo stare senza di te. 15. Io vado in ferie l'8. Ma te salti in mente? In pensione anche a 90 anni. L'importante è che a 85 anni, se perdo il lavoro, un'azienda mi assume. Grazie, buona giornata. Buongiorno Milan, ma hai sentito degli onorevoli che si riabilitano e si riprendono il vitalizio e pure gli arretrati? Allora ti propongo, invece di fare una rubrica su la psicologia di D'Alema o le metafore di Bersani, perché non facciamo una rubrica a chi daresti un calcio in culo stamattina? Il messaggio che da oggi sia più facile diventare cittadini italiani probabilmente susciterà false speranze, illusioni in Africa e aumenterà nuovi sbarchi e nuove tragedie del mare. Ah, vabbè, niente, adesso niente. Flavio, ognuno adesso vabbè. Bisogna dire qualcosa. Vuoi tu dare una ricetta sull'immigrazione? Non si sa. Vabbè, adesso la diamo. I nostri ascoltatori sono un po' più spicci. Ah, prima, Mauro Corona, prima di dirti questa cosa di Flavio Briatore, cosa ne pensi della proposta Messner della chiusura del Passo Sella, che poi è realtà, è traffico limitato alle macchine al Passo Sella? Questo piace. Ma è una questione un po' delicata, perché io sono d'accordo, anche l'ho anche detto a suo tempo, e il problema poi nasce che si sconvolge un po', diciamo, l'economia di quelle zone, anche se bisogna dire che l'economia non è povera in quei posti, quindi ogni tanto andare a piedi farebbe bene, quindi io sono d'accordo. Il problema sono poi gli albergatori, quelli che hanno che gestiscono dei negozi, delle cose, che si lamentano che non ci sono più qui. Però devo dire che vedere i passi in terze condizioni a luglio e agosto con un traffico che Milano fa ridere a confronto, po' da fastidio, e allora da fastidio. Cominciare a educare, a fermarsi magari più bassi, andare un pochino a piedi, guardarsi attorno, ma c'è anche da dire che quello che ha solo la domenica libera e approfitta per andare in macchina, cioè è una questione delicata, io sono d'accordo. No, ma è chiaro. Allora, senti qua Flavio Briatore, tra l'altro sarebbe straordinario, mi è venuta un'idea, dovremmo fare un confronto tra Flavio Briatore, che ha scritto un libro sulla ricchezza, e Mauro Corona, che ha scritto il libro Quasi Niente, cioè sull'importanza di tornare ai valori, di poter vivere anche con poche cose, con il necessario, senza fare i pauperisti. Ma perché l'ho scritto? Non per vivere da poveri, perché vivendo in un certo modo si guadagna in tempo libero, si guadagna in... Il tempo libero è prezioso, ma pare che la gente, quando si trova addosso del tempo libero, si annoia, non sa che fare. Non si annoia, incredibile, con tutti i libri che si possono leggere. Cioè. Comunque, senti un po', Flavio Briatore, al Fatto Quotidiano, a me parla di politica, sogno un'Italia, Renzusconi, Renzi e Berlusconi, questa è la politica. Vabbè. A un certo punto dice, mio figlio, ho trovato a scuola un suo amichetto, il figlio ha 7 anni, Nathan Falco, ho trovato a scuola un suo amichetto che ha il Rolex al polso a 7 anni, e lui stesso dice non va bene, certo, ma mio figlio sa che esiste la povertà, lo porto in Kenya, certo, gli fa notare al resort di Malindi, no, lo porto anche nei villaggi vicini perché veda la povertà, capisca la povertà, sappia che esiste la povertà. Però non è male, 7 anni il Rolex al polso, Mauro, come la vedi? Ma non è che mi facciano invidia, queste vivono male, guardate che non è che vivendo, è certo, rispetto alla miseria, all'indigenza, uno che è ricco, che diceva diceva Broschi, non c'è nessuno più annoiato di un ricco, perché il denaro compra il tempo è ripetitivo, ma io vorrei vedere chi non arriva a fine mese quanto vorrebbero annoiarsi. Avere un bel Rolex a 7 anni per il film. Questo sono stili di vita loro, chi ha i soldi. Certo, che non credano che la vita non gli dia la paga, perché ci sono, non basta essere ricchi a vivere bene. No, certo. Darsi che la vita ti metta l'inciampo, ti metta, quindi, e poi c'è gente che vive impaurita di perdere tutto, cioè, a me non fanno gola queste persone, non fanno invidia, ma lo stesso Briatore dice, lo so bene che la ricchezza non dà la felicità, no, questo slogan che si dice, la felicità dà una certa tranquillità, tranquillità. Vorrei invece che ogni ricco, e ce ne sono tanti, prendesse un pezzettino di questa sua ricchezza e aiutasse un povero. E invece sono dei crumiri indecifrabili. Dei crumiri. Cioè, più hanno e più vogliono. Prendi un povero una famiglia, gli fai che compri una casetta, gli dai un qualche soldo, intanto fai un'opera. Ma magari lo fa, magari lo fanno, ma dove lo fanno? Ma che ne so, è la solidarietà. Se lo fanno lo sbandierano in ogni, invece lo sbandierano in ogni, non lo fanno. Se li tengono lì, guardi che una volta è stato beccato, era allora, non so se era ministro, come si chiama, mi sfugge il nome, Casini, Pier Ferdinando Casini. Non credo, non so se era ministro, l'hanno beccato in Val d'Isoldo ed è stato uno scandalo, poi l'hanno soffocato questo, che ha usato il pass di sua figlia per andare a sciare, l'abbonamento annuale. Ecco, ha tentato di passare, direte mica che gli mancano i soldi a Casini, ha tentato di barare, di imbrogliare, e fu sui giornali locali, ma poi si soffocò giù tutto. Come se io mi vergognerei, io che ho soldi ne pago due, compro un pass anche per uno che ha pochi soldi. Il famoso, come si chiama, pagato, il sospeso, il caffè sospeso a Napoli, sì, no? Il caffè è sospeso, quella è una bella cosa. Va bene, dai, io mi devo fermare qui, voglio ringraziare Mauro Corona, così come Flavia Perina, per essere stati con noi. Dobbiamo andare alle informazioni di giornale radio e poi rientriamo con la rassegna stampa. Ale! 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, sono le 7:20 minuti, siamo qui, è la rassegna stampa di 24 mattino. Riparte una settimana. Forza, debosciati miei! Amici miei debosciatelli. Da quant'è che non vi chiamavo così? Siete ancora rallentati in questi vostri lunghi weekend di ozio, di vacanze. È tempo di produrre, tornare a lavorare e noi adesso di leggere i giornali. Andiamo, Peter Bescapè. Alino, il primo debosciato sei tu! Può essere. Lunedì 10 luglio, intanto le aperture dei quotidiani, l'apertura del Sole 24 Ore. Casa, risparmi, partite IVA, ecco tutte le flat tax d'Italia. Già 2 milioni di proprietari hanno scelto la cedolare affitti e il dibattito lanciato dalla proposta dell'Istituto Bruno Leoni sul Sole 24 Ore della flat tax, l'aliquota proporzionale unica di tassazione. L'immigrazione invece tiene banco ancora per il Corriere della Sera come apertura. Record di sbarchi, il piano di Minniti per le nuove regole. Triton va cambiato, scontro sull'accoglienza. Il messaggero migranti, l'Italia cambia le regole. Linea dura del Viminale fuori da Triton se non si modificano gli accordi sugli sbarchi. Anche il giornale apre su questo accusando però gli aiuti all'Africa finiscono in tasca alle cooperative. Dei 4,8 miliardi stanziati da Renzi, ben 1,6 sono serviti per l'accoglienza nei centri di identificazione e espulsione. Anche Libero attacca, aiutare gli africani è un'idiozia, questo è il titolo di prima pagina, li abbiamo riempiti di soldi invano, con l'editoriale di Vittorio Feltri. Poi la Repubblica lunedì sfida sul fiscal compact per tagliare le tasse nella manovra d'autunno, il piano del segretario del PD Renzi su deficit e investimenti. Sulla Stampa c'è un'intervista sempre sull'economia Del Rio, ministro Del Rio, le regole europee frenano la crescita. Queste alcune delle aperture, vedremo altre. Intanto voglio partire da che cosa? Oggi arriva alla Camera una proposta di legge di cui abbiamo già parlato in passato, chissà, forse ne parleremo anche nei prossimi giorni, la proposta di legge portata avanti dal deputato Emanuele Fiano del Partito Democratico. La proposta consiste di portare nel codice penale con l'articolo 293 bis il divieto di propaganda fascista con il carcere dai 6 mesi ai 2 anni per chi dovesse entrare in vigore questa nuova legge fa appunto propaganda al fascismo. È vero, ci sono già delle leggi, la legge Scelba, prima la legge Mancino del 93, ma non sono ritenute sufficienti a stroncare alcuni fenomeni. Allora, ne parla oggi la Stampa con una pagina. Ecco, quando si parla di quali fenomeni da stroncare. Ieri Repubblica ha tirato fuori la vicenda dello stabilimento di Chioggia, Punta Canna, uno stabilimento già finito nel mirino nel passato, in cui il gestore, siamo a Chioggia per l'appunto, appende cartelli del tipo servizio solo per i clienti, altrimenti manganello sui denti, oppure chi entra in questo stabilimento sappia le regole, ordine, pulizia, disciplina, severità, ma ci sono anche degli espliciti riferimenti a Mussolini e anche soprattutto propaganda da parte del titolare del Lido, propaganda del tipo qui vige il regime, la democrazia fa schifo, se non vi piace me ne frego, cioè arringa lui stesso i bagnanti. E allora le proteste arrivano dell'associazione partigiani, della comunità ebraica, il caso finisce in Parlamento, ora la concessione è a rischio, chiudete il Lido fascista, la polizia denuncia il gestore della spiaggia, che viene intervistato da Repubblica, da Francesco Furlan, siamo a pagina 12, lui dice me ne frego, eccolo qua, Gianni Scarpa, 64 anni, detto il pirata per la bandana che lo rende subito riconoscibile sulla spiaggia. Lui già in passato aveva scritto cartelli del tipo zona inadeguata per bambini e buzzurri, non ce l'aveva coi bambini. Ora dice fascista io, ma quando mai? Non sono né di destra né di sinistra, mi piacciono solo l'ordine e la disciplina. Le persone ospiti di questo stabilimento si devono comportare bene, chi viene lo sa. Ma l'ordine e la disciplina di Mussolini, questo lei vuole? Era un social liberale che ha fatto molto per l'Italia, anche se ha commesso l'errore di portarci in guerra costretto da Hitler. Comunque, a casa mia le regole le faccio io. Da 22 anni gestisco questo bagno, prima era un ricovero di tossici e ora chi vuole venire qui si adegua. Ma senta, ci sono anche i cartelli delle camere a gas. Sentite la risposta. Non ho niente contro gli ebrei, sono da ammirare perché sono più bravi negli affari. Eh? La classica propaganda anti-ebraica. Ho qualche problema con il Rom, perché non è giusto educare i bambini ad andare a rubare. E ora che farà? Vado avanti, me ne frego. Ieri tirata fuori la spiaggia fascista, non a caso tirata fuori dalla Repubblica nei giorni in cui appunto si discuterà alla Camera se inasprire le pene per chi fa apologia di fascismo. Comunque, numeri. E soldi, soldi, soldi, soldi. Beh, non soldi per gli insegnanti. In questo momento le scuole sono finite, sono sospese. Cari insegnanti, se volete deprimervi, leggete Salvo in Travaglia su Repubblica, pagina 20, insegnanti sempre più poveri. In 10 anni gli stipendi sono calati del 7%. Uno studio dell'OCSE sull'evoluzione dei salari dei docenti in Europa. Calano in Italia, il peggio è in Grecia, crescono invece in Germania e Stati Uniti. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, 3 giorni fa, ha dedicato ai salari di maestre e professori un focus: come si sono evoluti gli stipendi degli insegnanti, come si relazionano con quelli dei docenti universitari. Risultato: maestre e professori italiani risultano sempre più poveri, più di quanto non accade all'estero, dove in alcuni paesi europei le retribuzioni si sono addirittura incrementate. Comunque, leggete pagina 20 di Repubblica sugli insegnanti e i loro stipendi. A proposito di soldi, invece, se volete arrabbiarvi un pochettino, potete leggere l'apertura del giorno, giornali, milioni ai partiti. È un focus di Open Polis che ha analizzato il flusso di denaro arrivato ai quotidiani dei partiti legati ai partiti politici, i cosiddetti quotidiani politici, finanziamenti pubblici negli ultimi anni, 238 milioni di euro dal 2003 al 2015, 238 milioni di euro. Qual è il giornale che ha goduto di più finanziamenti? L'Unità, che peraltro adesso è scomparso. Hanno ricevuto dal 2003 a oggi 62,6 milioni all'Unità. Secondo, La Padania, scomparso anche il giornale. Devo dire che questi finanziamenti hanno portato molto bene, sono serviti a fare crescere molto questi giornali. Anche La Padania, secondo quotidiano, che ha ricevuto dal 2003 al 2015, quindi 12 anni, ha ricevuto 38 milioni di euro, scomparso. Terzo, Europa, 32 milioni di euro, scomparso anche Europa, neanche nelle edicole. E poi Il Secolo d'Italia, scomparso. Diventato l'organo del movimento sociale, poi passato attraverso varie proprietà ad AN, 28,2 milioni di euro. Ma ci sono anche pubblicazioni come Terra Notizie Verdi, organo ufficiale della Federazione dei Verdi, ha ricevuto 13,8 milioni di euro. Comunque tutto sul Giorno, nell'inchiesta di Matteo Palo, giornali di partito, buco di 238 milioni. Beh, non è male. Certo, in tanti anni c'è anche un'intervista a Staino, a Sergio Staino, 77 anni, l'ultimo direttore dell'Unità, almeno nella versione cartacea. E lui infatti dice: potrei restare nella storia per questo record ovviamente negativo, invece sono nel limbo. E Staino racconta come l'Unità è andata male nella sua avventura e per questo non è più in edicola, ma insomma questa cifra 238 milioni non è male, tenetela lì per iniziare la settimana e ovviamente buon lunedì a tutti. A proposito di soldi, se non è finita, siamo all'articolo che mi fa pinzore della giornata, l'articolo da Mani sul Volante, sono nella prima pagina di Affari e Finanza, inserto economico del lunedì di Repubblica, che racconta con Marco Ruffolo, in base a uno studio della CGA di Mestre, che ha messo in fila con una ricerca aggiornata al 2017 i 100 tributi degli italiani, anche se sono davvero anche di più, eccole qui che rispuntano: le tasse sull'ombra, le tasse sulla bandiera, l'Italia nella rete del fisco inutile. Marco Ruffolo racconta poi a pagina 2 di Repubblica le bizzarrie come le tasse su le bandiere. Nel caso di un hotel ad Esio che esponeva 5 bandiere, tra cui quella italiana, ecco le tasse, poi dopo sono state restituite con tante scuse. Oppure il titolare di un alimenti di Conegliano, Mattias Doimo, che racconta di qualche anno fa, quando si sentì di dover pagare 30 euro per occupazione di suolo pubblico per avere aperto una tenda parasole che faceva ombra sul marciapiede antistante. E così via, l'imposta di bollo sulla raccolta di funghi. Vi rendete conto, effettivamente, c'è un'imposta, la tassa per raccogliere funghi. Vabbè, la tassa per la caccia e pesca, sui pubblici spettacoli, sulle feste private in luogo pubblico, sulle invenzioni, sulle domande di registrazione del brevetto, sugli sposi, la tassa sugli sposi, anche gli sposi, l'esposizione della bandiera, ombra, balconi, bandiere, ecco l'Italia nella rete del fisco inutile. Poi inutile per lo Stato, è molto utile. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. State ascoltando un programma offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Alessandro Milan, il grande puffo dell'informazione. Allora, va bene, il grande puffo. L'immigrazione resta uno dei temi più trattati dai giornali, anche perché, come racconta Fabrizio Caccia, siamo a pagina 2 del Corriere della Sera, mai così tanti migranti in 6 mesi. Più di 14.000 arrivi al mese, la media record del 2017 secondo il Ministero dell'Interno, un aumento del 10,85% rispetto all'anno scorso. Sono sbarcati in Italia dal 2 gennaio al 7 luglio di quest'anno già 85.150 migranti, l'anno scorso erano stati 76.813. Ora Matteo Renzi, tacciato di deriva leghista per quella frase sui migranti, abbiamo il dovere morale di aiutarli davvero a casa loro, estrapolata dal libro che uscirà mercoledì. Ora lui dice bisogna cambiare gli accordi Triton e fanno notare molti, ma come, quegli accordi li avete firmati voi, proprio il governo in cui premier era lo stesso Renzi. In ogni caso, in questa inseguirsi dichiarazioni in cui ognuno dice di aver ragione e la colpa invece sta dalla parte avversa politica, l'avviso di Minniti all'Unione Europea è proprio questa: cambiamo il trattato Triton. Pagina 3 del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini. Domani, d'altronde, c'è il vertice di Varsavia, si parla proprio di Triton e cambiarlo è l'obiettivo di Minniti. Anche per il Messaggero, nuove regole per non uscire da Triton. In tutto questo, parla Emma Bonino. Emma Bonino che dice e ribadisce: non ho detto nulla di scandaloso nel ricordare che Triton è stato firmato dall'Italia, è stato firmato dagli italiani, e dunque ribadisce questa verità. Come parla anche Giuliano Pisapia, o meglio Repubblica racconta, Mauro Favale racconta, pagina 4, Giuliano Pisapia: Triton è un errore di Matteo Renzi, ma Macron è peggio. Questo è assunto del suo intervento ieri a un convegno, Giuliano Pisapia, che ce l'ha appunto con questa idea di Triton firmato, che ci ha obbligato a prendere i migranti e mantenere come unico corridoio dall'Africa l'Italia aperta. Poi però, aggiunge Giuliano Pisapia, ce l'ha anche con il presidente francese. Questo, lo ha apostrofato così, ha vinto le elezioni per due motivi: da una parte perché la sinistra non era unita, altrimenti sarebbe arrivato al ballottaggio, dall'altra esaltando l'europeismo. Nei fatti però non dà nessun contributo e anzi rimanda in Italia chi da 20 miglia era riuscito a passare in Francia. Questo è Giuliano Pisapia nei confronti di Macron. Emma Bonino, dicevo, invece sulla Stampa parla di Triton e fa anche una proposta concreta. Francesca Schianchi, la intervista, pagina 7, dice Emma Bonino: bisognerebbe studiare la proposta avanzata dal nostro segretario dei radicali italiani Riccardo Maggi e dalla comunità di Sant'Egidio. La proposta è questa: in caso di afflusso massiccio di sfollati si prevede uno smistamento nei vari paesi attraverso una protezione temporanea di un anno, prorogabile fino a un altro anno. Verrebbe rilasciata a tutti i profughi che provengono dalla Libia. Cioè, chiede la Stampa, l'Italia potrebbe lasciare visti temporanei che permettano ai migranti di muoversi in Europa? Sì, risponde Emma Bonino, nel rispetto delle regole di Schengen, che in ogni caso prevedono deroghe per motivi umanitari. E perché nel governo nessuno ha parlato di questa direttiva? Mi auguro che la stiano studiando. Così Emma Bonino dice: il governo potrebbe mettere visti temporanei ai migranti per motivi umanitari, visto l'alto afflusso, e smistarli così nei paesi europei, nel senso che con quei visti temporanei, prorogabili anche di un altro anno, i migranti potrebbero spostarsi sul suolo europeo. È una proposta concreta. Non lo so se si può fare. Si potrebbe anche studiare. In tutto questo, l'altro grande tema che tiene banco è l'economia, sempre dalle anticipazioni del libro di Renzi. Questa anticipazione del libro di Renzi, non è uscito il libro di Renzi e già mi hanno stancato, però le anticipazioni che dettano l'agenda politica. Nelle anticipazioni del libro di Renzi, che uscirà mercoledì, c'è questa proposta all'Europa. A Bruxelles chiediamo di tornare alla disciplina di Maastricht, impegnandoci per 5 anni a mantenere il deficit sotto al 3% del PIL e liberando così dai 30 ai 50 miliardi da ottenere in più con cui finanziare un grande piano per ridurre la pressione fiscale e rilanciare la crescita. Questa proposta tiene banco, forziamo il deficit, è l'uovo di Colombo per ottenere 30 miliardi, lo definisce così Massimo Giannini su Repubblica, e ci sono interviste. Del Rio, intervistato, dice: il nemico è il fiscal compact, un grave errore contro cui combatteremo, che è un po' quello che vogliono anche quelli del Movimento 5 Stelle. Dunque, da una parte, vicini alla Lega, aiutiamoli a casa loro, o meglio sarebbe dire a casa propria, e vicini al 5 Stelle sul attaccare il fiscal compact. Su questo interviene in un'intervista di una pagina Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico, intervistato da Daniele Manca sul Corriere della Sera, pagina 5. Calenda, che è stato anche qui di recente, sapete, sulla politica, nega di voler fare politica un domani, dice: sono un ministro tecnico. Il titolo dell'intervista: serve un piano per il paese con una squadra ampia. Renzi apra alla condivisione. Sulla proposta di recuperare 30 miliardi portando il deficit al 2,9% per 5 anni lanciata da Renzi, dice Calenda: aumentare il deficit è un rischio che possiamo correre solo a 3 condizioni. Allora è d'accordo. No, mi faccia finire. La prima condizione è che le risorse liberate vengano concentrate sugli investimenti, la produttività, interventi organici sulle situazioni di reale emergenza. E poi fa tutta un'analisi sulla crescita, anche la crescita che dovrebbe migliorare, soprattutto una crescita armonica, visto che al nord sta succedendo che la crescita, un pezzo di paese c'è, è ripartito alla grande, ma se il resto non seguirà ci sarà un ulteriore scollamento. Seconda condizione, riprendere vigorosamente la strada delle privatizzazioni. Su questo sapete che c'è una battaglia politica tra Calenda e anche probabilmente, non dico Renzi, ma comunque alcuni parlamentari renziani che gli ha messo qualche paletto di traverso in Parlamento. Per essere credibili, ribadisce Calenda, dobbiamo mettere in atto poi la terza condizione, continuare con le riforme, concorrenza, diritto fallimentare, politiche attive, lavoro 4.0, pubblica amministrazione. Immagino che la proposta di Renzi riguardi la prossima legislatura e comunque se domani o fra un anno prendessimo la strada dei tagli fiscali a pioggia o delle mance elettorali o ancora se mentre proponiamo di aumentare il deficit rallentiamo le riforme, la concorrenza o le privatizzazioni, leggi poste, beh allora meglio tenersi al sicuro nei parametri europei. Così Carlo Calenda, che dunque dice... meglio i parametri europei se servono invece i soldi per le mance elettorali. Questa è un po' una stoccata a Renzi. C'è. In tutto non entra in politica Marchionne. Non ci penso neanche di notte. La proposta di Berlusconi lanciata attraverso le colonne di Libero. Non ci penso neanche di notte. E il Messaggero dice e rispolvera una vecchia carta vincente, secondo alcuni, Marina Berlusconi, che torna ogni qualvolta c'è una tornata elettorale, l'idea Marina Berlusconi, ma noi candidiamo Mauro Meazza, ma lanciamola anche noi, facciamola virale questa cosa, Mauro Meazza, dai, ti candidiamo, a quel cavolo che vuoi tu, noi ogni tanto lo diremo, Mauro Meazza, candidato, mamma, Mauro grazie, Meazza, grazie, votate Meazza! Più Meazza, guarda, per tutti, uno stadio per tutti a casa se votate Meazza. Ti sento molto molto vivacetto questa mattina, Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Ti ringrazio della segnalazione, vediamo se ne può parlare, magari facciamo un ticket, come si dice, tu ed io. Sì, Milan e Meazza, il Milan al Meazza. Così riusciamo magari a intercettare tutte e due le tifoserie e magari moltiplichiamo i voti. Va bene, basta perdere tempo in cerie perché è il momento degli endecasillabi. Bene. Essendo lunedì è il momento degli endecasillabi sul sole, perché parlano appunto del sole 24 ore del lunedì. Bene. Che tu ti nutra halal oppur kosher, che mangi pasta sciapa oppur salata, potresti aver bisogno di un voucher per un'occupazione limitata. Poiché da oggi l'INPS te lo riattiva, il Sol 24 Ore ti riassume per l'uso di famiglie o casi IVA e niuno potrà più perderlo lume. Conserva, mio lettor, pagina quinta, ma non dimenticare tutto il resto, l'esperto che risponde e ti dà spinta per avanzar nel fisco più funesto. E poi norme tributi con dovizia giunge a chiarir con provvido ottavino il BEPS, i contributi e l'edilizia, e ne berrai come di mero vino. Se leggi da smartphone o da tablet, altri piacer per oggi abbiamo in serbo, l'ebook che con il codice ti è offert, l'offerte di lavoro di gran nerbo. Intanto che incontriam le albe restanti, il clima, alino mio, si fece d'Africo. È la stagion che vincon tutti quanti uno scudetto per gioir nel traffico. Alessandro Milan, il gattaro dell'informazione. Va bene, adesso non esageriamo. Saluto la mia gatta Zen, ovviamente. Comunque, Per quel che riguarda sempre la politica, bisogna dire che Salvini invece dà un messaggio a Berlusconi in un'intervista a Repubblica dicendo il Movimento 5 Stelle non è il male, è un'intesa possibile dopo il voto. E a proposito del Movimento 5 Stelle, le grandi manovre si concentrano sulla Sicilia. In Sicilia l'ultima chance, non torno a nuoto. Ieri Beppe Grillo a presentare il candidato Giancarlo Cancelleri, che sarà lui, tra l'altro rilascia un'intervista al Corriere della Sera, capogruppo ora in Sicilia, e sarà il candidato per le regionali in Sicilia, perché Beppe Grillo e Casaleggio dicono lì dalla Sicilia parte la conquista prima di una regione importante e poi del governo. La politica è qui. Signori, però adesso volevo leggervi un'intervista spettacolare. Intervista spettacolare, come spettacolari sono le interviste che Antonello Caporale fa, come sempre. La trovate sul Fatto Quotidiano in prima pagina, un'intervista a Flavio Briatore. Perché ci sono alcune chicche, alcune perle. Lui che ha scritto un libro sulla ricchezza. E lui che in qualche modo vorrei mettere a confronto con Mauro Corona, che invece ha scritto, prima avevamo il nostro Mauro Corona, ha scritto un libro dal titolo Quasi Niente, no? Per cui da una parte la ricchezza e da una parte l'elogio del vivere non in maniera pauperista, come dice, come non vuole dire Mauro Corona, ma è una vita un po' più morigerata, se vogliamo. Eccolo qua, comunque. Flavio Briatore, che vabbè, parla, il suo sogno è Renzusconi, Renzi e Berlusconi, parla di Berlusconi, parla di Renzi, ma non è tanto questo. Poi il clou dell'intervista, secondo me, è quando si parla di ricchezza e Flavio Briatore al Fatto Quotidiano dice: io sono in pensiero per la crescita sana del piccolo Nathan Falco, cioè il figlio. Ho trovato a scuola un suo amichetto di 7 anni con un Rolex al polso. Povero figlio! Non va bene, sono d'accordo, ma mio figlio sa che esiste anche la povertà. Viene con me in Kenya. Sì, mi scusi, viene al resort di Malindi, l'Africa perduta agli occhi, il mare che sembra una pietra preziosa, o no? Lo porto anche nei villaggi vicini, dice Briatore, dove i bambini giocano con niente. E lui mi dice sempre, sai papà, che quei bambini sono poveri ma felici. Ah, che saggezza questo Nathan Falco. Cioè, mio figlio ha 8 anni, una roba del genere non l'ha mai tirata fuori. Comunque, la ricchezza non dà felicità, è vero Briatore? Esattamente, risponde Briatore. È un po' un guaio l'analisi che fa suo figlio. Eravamo partiti in direzione opposta, ma quei bimbi hanno bisogno di poco per essere felici, davvero. E il mio Falco si trova bene con loro. Lo porto in Kenya perché lui deve sapere. Deve vedere. Beh, questo secondo me, soprattutto l'amico di Nathan Falco a 7 anni con il Rolex al polso, direi che è assolutamente il clou. L'intervista del giorno su cui dovete meditare i vostri posti di lavoro, e vorrei che scambiaste opinioni su questo. Il figlio, l'amico di Nathan Falco a 7 anni a scuola con il Rolex al polso. Mosul è la città del nord dell'Iraq che è stata liberata dall'ISIS. Oddio, liberata proprio non si sa, come racconta l'inviato Lorenzo Cremonesi, che non si trova proprio a Mosul ma a Erbil, nella zona, e racconta di una città in cui si sentono ancora spari in lontananza, vanno battuti i nidi di resistenza dell'ISIS da parte dell'esercito iracheno in una zona profonda 300 metri tra le macerie della moschea al-Nuri e il Tigri, una zona ampia 2 km². Ma il reportage sul Corriere della Sera, così come il reportage su Repubblica a firma di giornalisti del New York Times, Tim Arango e Michael Gordon, Mosul liberata, beh, ve li segnalo perché sono due articoli che ci riportano in quella tragedia irachena e poi la tragedia legata all'ISIS, che è un po' una tragedia anche di tutti noi, non dimentichiamolo. Vi segnalo anche l'intervista a Massimo Giletti, 2 pagine su Libero, intervistato da Daniela Mastromattei. In realtà non svela il suo destino futuro, non ho ancora preso una decisione se rimanere in Rai o no. Mio padre mi ha insegnato l'arte di non abdicare mai a onestà intellettuale e dignità. Dalla RAI si entra e si esce, dice. Spesso ho trovato in questa azienda persone che non mi hanno aiutato, anzi hanno cercato di ostacolarmi. Però poi c'era una parte sana che mi dava una mano perché sapeva come lavoro e si stava a galla con gli ascolti. Comunque racconta in questa intervista di Libero minacce, multe, liti in diretta, vi racconto la mia arena antipatica. Il conduttore che si toglie qualche sassolino sulla RAI mi hanno ostacolato spesso, sul futuro dice però non ho ancora deciso, ma dice anche non scendo a compromessi. Faccio vedere in primo piano. Visto che c'è Lorenzo Nespoli che mi sta riprendendo sulla pagina Facebook mia personale, il mio profilo pubblico, ma siamo anche in diretta sulla pagina Facebook di Radio 24 e sul sito radio24.it. C'è tanta cronaca, purtroppo lunedì quando si parla di cronaca si parla soprattutto di omicidi, soprattutto su questi, la vicenda in Val di Susa dove è stato arrestato un automobilista ubriaco, è stato accusato di avere inseguito dopo una lite una coppia che andava in moto, di averli inseguiti per vari chilometri dopo un diverbio e averli tirati sotto. La donna, la ragazza è morta e lui è in gravissime condizioni. Ora bisogna capire solo se è stato un incidente o se davvero c'è stato questo diverbio prima, l'inseguimento, e qui la situazione cambierebbe totalmente. Ma siamo all'articolo più inutile scovato sui giornali, l'ennesima pagina dedicata alle diete, detox, digiuno intermittente, senza glutine, crudista, zona, fruttariana, tisanoreica, sul Fatto Quotidiano, una dieta davvero rivoluzionaria. Mangia poco e bene. Ma chi se ne frega?